Buongiorno a tutti, presento il dialogo di questo pomeriggio che è incentrato sulla questione dei nuovi media e dei nuovi approcci storiografici, fondamentalmente la storia all'impatto con la contemporaneità. Da dove cominciare? E mentre preparavamo questa introduzione, se parlo basso di mentre preparavamo l'introduzione a questo dialogo, ci siamo imbattuti in un testo del 1998, un saggio in una raccolta di lavori su Gramsci, su testi gramsciani, scritto da un ricercatore inglese, che fondamentalmente parlava del ruolo dell'intellettuale organico nella visione gramsciana, e alla fine di questo saggio c'era un paragrafo intitolato semplicemente Università. E all'interno di questo paragrafo, questo storico inglese lanciava alcune accuse agli studi culturali contemporanei. Fondamentalmente diceva che gli studi culturali attualmente, come ogni branca degli studi storici, rischia di rinchiudersi in un circolo assolutamente limitato agli addetti ai lavori all'interno delle facoltà universitarie e comunicando verso l'esterno attraverso riviste scritte in un linguaggio criptato che può essere compreso solamente dagli addetti ai lavori. Chi era l'autore? È Shane Gunster. Gunster, che citava, tra l'altro citava anche Stuart Hall per avvalorare da questo punto di vista. Però questo Shane Gunster non lanciava in sasso nascondendo la mano. A valle di questa sua constatazione proponeva tutta una serie di soluzioni, ed erano essenzialmente tre. Erano il lavoro collettivo, il lavoro di ricerca e produzione di testi collettivo, poi il lavoro sulla forma, la forma della scrittura storica, cioè fuggire da questa criptazione del linguaggio, e poi l'interdisciplinarità, nel senso il puntare moltissimo sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti, non solo a livello di lavoro di ricerca collettiva, ma anche a livello di apertura. Lui parlava chiaramente di studi culturali e diceva all'interno della ricerca e della scrittura in studi culturali non bisogna coinvolgere soltanto storici culturali, ma coinvolgere una pluralità di soggetti, ma questo può essere applicato chiaramente ad ogni branca della storiografia. Perché ho parlato di questo saggio? Perché questo saggio è di 14 anni fa, e quando l'anno scorso ci siamo ritrovati a Bologna come studenti del primo anno della laurea magistrale in scienze storiche, sono esattamente questi tre nodi che ci siamo posti, senza aver letto un saggio di Gunster, però sono i tre nodi che si presentano naturalmente, mi viene a dire, a chiunque inizia a fare storia in questo momento. Ed è attorno a questi tre nodi che si è coagulato il collettivo Caso S. Per cui quando ci è stato chiesto di organizzare questo dialogo, è attorno a questi tre nodi che ci siamo interrogati. E sono contributi su questi tre nodi che noi portiamo oggi alla discussione collettiva. Per cui procedo a presentare le persone che parleranno. Parlerà Alfredo, del Caso S, che ci illustrerà un intervento dal titolo Tra penna e tastiera, pratiche e complessità dei movimenti storici, come introduzione non uno stato dell'arte completo, ma un rapido sguardo sulla situazione attuale della storiografia che impatta con questo mondo di tastiere, schermi, strumenti di ricerca nuovi che sono a distanze spazio-temporali assolutamente imparagonabili con quelli a cui erano gli strumenti di ricerca fino a 10-15 anni fa. Poi avremo Michele Martini, che ci proporrà un esempio pratico. Michele è un dottorando a Bologna, è un semiologo, quindi non è quindi non è uno storico organico della, della nostra facoltà, ma ci proporrà questo esempio pratico di lavoro su delle fonti che sono la rete, cioè nel senso sono proprio YouTube, che intendoci. Poi avremo il l'equip, cioè il lavoro. Avremo l'equip sperimentale di Modena, che ci proporrà un intervento sulla scrittura collettiva, sulla ricerca collettiva, sulla collettività come metodo di lavoro, sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della produzione. E infine avremo il progetto Lapsus di Milano, che ci porterà la sua esperienza nel campo della comunicazione a livello anche divulgativo verso l'esterno delle facoltà. Quindi lascio la parola ad Alfredo.